www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli ogni notte la copia carbone della precedente, Kappa e Drago prendono una sbandata esoterica. Da quando siamo entrati in questo thriller del tredicesimo apostolo, mi sono pentito di non avere mai degnato di uno sguardo il Codice da Vinci. Però a grandi linee so di cosa parla. Il libro lancia un'ipotesi suggestiva, che Maria Maddalena fosse il tredicesimo apostolo e che Cristo abbandonò con lei la Palestina per andare ad abitare in Francia, dove, protetti da una società segreta chiamata Priorato di Sion, diedero origine alla dinastia dei Carolingi. No, è Priorato di Sion o di Sion? Perché credo Sion, sionismo, quelle robe ebraiche lì, no? Anche Sion è Sion, città della Svizzera, quindi non c'entra niente, credo. È proprio sicuro, Tenente Drago? Credo di sì, Comandante Kappa. Ma se crede di sì, allora non è proprio sicuro. Credo di no. Presto! Tenente Drago! Cosa? Dobbiamo assolutamente verificare il legame tra Moghele e la città di Sion. Andiamo a Sion! Tenente Drago! Avanti! Marsh! Willkommen, benvenuti in Canton Valese di Svizzera. Questo cantone è diverso di tutti gli altri perché gode di microclima mediterraneo che qui non fa mai freddo anche d'inverno. Tutto intorno montagne e neve, ma Sion, la Hauptstadt, la capitale, è sempre bello e senza freddo. In questa città di Sion narra leggenda che il tredicesimo apostolo di Gesù Cristo, un africano senza nome, ha fondato stirpe di Füdliburger, che ancora oggi è stirpe molto potente in Svizzera. Ma si tratta ovviamente di bugie, fantoni, favole per bambini piccoli e stupidi senza intelligenza. Perché bambini intelligenti non si frega niente di tredicesimi apostoli e di microclima e di cose così. Bambini intelligenti frega solo di PlayStation. E anche io piace di PlayStation. Sterno, sterno, sterno, sterno. PlayStation. Drago, sto cercando di far quagliare tutto, qui è un disastro. Ma tutto cosa? Ma tutto, Amoghele, Büchner, la fabbrica, tutto, c'è un fil rouge che unisce tutto. Ah, il fil rouge, come in Giochi senza frontiere. Vabbè, ma anche il nostro è una specie di gioco senza frontiere. La Germania di Büchner, il Botswana di Amoghele, la Palestina di San Paolo, la Svizzera di Sion e poi la fabbrica, insomma. E dove sarebbe questo fil rouge? Non lo so, ma ci deve essere. Vabbè dai, lasciando stare la Palestina di San Paolo, che è un ramo secco, perché se San Paolo fosse il tredicesimo apostolo, cadrebbe tutta la nostra teoria su Amoghele. Sì, Quindi restano la fabbrica, il Botswana, la Germania e la Svizzera. Il Botswana esiste da poco, prima lì era tutta giungla, senza leggi, senza stati. Allora, ai tempi di Cristo, Drago, un abitante di quelle zone... Un cannibale praticamente. Non lo so, cannibale, però doveva avere per forza doti eccezionali per trovarsi di fianco a Gesù. Sì. Quindi il Botswana è solo il punto di partenza di Amoghele, capito? Che poi si sposta in Svizzera a Sion, dopo la morte apparente di Gesù. La resurrezione. Morte apparente, dai. E poi fonda la stirpe o dinastia dei Füdliburger. Sì, vabbè, ma dentro questo cosa c'entra Büchner? È vissuto 1800 anni dopo Cristo ed era tedesco. Credo anche che non sia mai stato a Sion, quindi... No, a Sion no, però a Zurigo sì. A Zurigo? Eh sì, faceva l'istruttore privato. Cioè? E cioè insegnava la biologia a chi volesse seguire le sue lezioni. Ed erano pochi, a dire la verità. Nessuno era interessato alle sue dimostrazioni zootomiche, capito? In cui illustrava l'anatomia di pesci, anfibi, polli. Polli? Polli, sì. Allora Büchner e i polli hanno qualcosa in comune, no? Oltre certo, alla temperatura. Certo. Però non capisco il legame con Sion e Amoghele. Zurigo è a 275 km da Sion con l'autostrada, mentre senza autostrada è più corta, 207 km, ma ci metti di più, certo, sì. Quindi Büchner 200 anni fa, a piedi o in carrozza, non sarebbe nemmeno partito per Sion, te lo dico io. Quindi non ci sono legami tra Büchner e Amoghele in nome della Svizzera, come speravi di concludere tu subito. Questo lo dici tu, no, questo lo dici tu, perché è tutto da verificare. E io ce la farò! No, ma cos'è? Ti sta spuntando una camicia bianca da sotto la dolce vita! Ah, ma la fame di sapere può portare lo stesso essere umano a sprofondare negli abissi della follia! Appunto, cappa! Il genio deve essere pronto a spiccare il volo verso il cielo proprio quando i tentacoli della pazzia stanno per arpionare le sue gambe! Ah, cappa, ma è tutto un sogno! Non sta succedendo niente! Lasciatemi! E in quell'attimo infinitesimale, proprio in quell'attimo, si compie il destino, glorioso oppure tragico, del marchese che è in me. Ah, la fame di sapere, ah? Ma io ho fame. Allora, Joao, tu praticamente sei morto. È morto. No, ancora no, però manca poco, eh? Credo che come al solito quelli della fabbrica siano in ritardo. Quindi più o meno ti restano da vivere 2 o 3 giorni. E quindi in questo periodo, e te lo dico come un padre, ti consiglio di ripensare alla tua vita, agli errori che hai fatto, alle promesse che non hai mantenuto e anche a tutte quelle belle cose che hai ricevuto dalla tua breve vita, no? Tipo, eh sì, tipo la mia amicizia per esempio e quella di Tarek. Devi fare una specie di bilancio. Anche se alla fin fine non serve un tubo, perché tanto poi muori. Sì, però io ti consiglio di fare come insegnava il vecchio Pascal, che era un filosofo francese, tutt'altro che scemo, eh. E Pascal diceva: prima di morire, pentiti e professa la tua fede. Poi, se Dio esiste, meglio. Vai in paradiso e tutte quelle cose lì. Se invece scopri che Dio non esiste, non ci perdi niente, no? Muori e basta. Se invece muori senza dire che credi in Dio, e poi Dio esiste, allora vai all'inferno, eh. E guarda che all'inferno è uno sbattimento, eh. Lì c'è un mucchio di gente. E poi c'è il diavolo, il fuoco, i gironi. C'è Champions League! Ma che Champions League? I gironi infernali, no? Ecco, quindi Joao, tu adesso hai tutto il tempo che vuoi per pentirti e guadagnarti un posto tra gli angeli, no? Sì! Anche se alla fine, lo dico qua tra di noi, io non credo che ci sia un Dio per noi polli. Perché se esistesse, non permetterebbe di farci vivere in queste condizioni, no? Quindi, secondo me, 99% non esiste. La peggiore delle ipotesi, poi, è che muori e smette di esserci, no? Il che poi non è che mi sembra così tragico, no? O no? Ma io ho fame. Che cosa succederà adesso? Sarà sufficiente un po' di filosofia spicciola per placare la fame e la paura del piccolo Joao? Per saperlo, dovrete trascorrere un fine settimana all'insegna della noia, ma poi lunedì vi troverete puntualissimi a mezzanotte su Radio 3 per i prossimi strazianti allestimenti de... La fabbrica di polli produce... Non muore quasi mai.